cosa sei? Un angelo caduto giù. Dimmi un po' che farei se non ci fossi tu. Mamma mia, che follia, senza di te la vita mia. Ma ci sei, tu sei mia, ancora sempre tu, che mi fai soffrire, tu che mi fai morire, tu mi ridai la vita, tu senza te è finita, tu che mi sai capire, tu che mi dai l'amore, tu che mi fai sognare, tu. Sai che in fondo a tutto ci sei tu, sei la mia fantasia, ancora sempre tu.